La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Stiamo un poco all'ombra, che c'è troppo soli. Buonasera a tutti e ben ritrovati alla prima volta. L'ospite di oggi è Emma Dante, drammaturga e regista palermitana. Tra pochi giorni, ovvero il 28 febbraio, al suo debutto milanese al Piccolo con Bestie di scena. Tanta Sicilia sempre nei testi di questa intellettuale, tanto amata fuori dai confini e tanto contestata in Italia, addirittura scomunicata dal Vaticano, capace di raccontare il dolore degli ultimi, le morbosità che si annidano in certi contesti sociali. Un artista che, dicevamo, debutta al Piccolo, uno spettacolo teatrale che ancora prima di partire sta riscuotendo molto interesse e sta facendo discutere, come del resto quasi tutte le cose che la Dante ha portato in scena nella sua carriera. Per tornare a Bestie di scena, Milano è tappezzata di locandine dove campeggia l'immagine di un gruppo di attori nudi. Emma Dante, ci racconta come nasce questo spettacolo? Sì, infatti questo spettacolo racconta la storia di un principio, fondamentalmente. In questo principio c'è questa comunità di esseri primitivi che decidono di rinunciare a tutto, al costume, al ruolo, al personaggio, e si ritrovano in questo rettangolo nero che è il palcoscenico, da dove poi, insomma, dove accadranno delle cose, dove arriveranno in scena dalle quinte degli oggetti con i quali questi esseri, queste persone, insomma, questi uomini e donne faranno i conti. Per cui appunto lo spettacolo inizia con questa rinuncia, con questo azzeramento. Gli attori si tolgono i vestiti sudati, perché comincia proprio con un training, con delle esercitazioni fisiche, eccetera, perché comunque l'inizio di tutto è sempre un po' l'attore che si prepara sul palcoscenico, quindi anche un ragionamento sul teatro, sulla nudità del teatro e sulla presenza dell'attore nel teatro. E poi cominciano appunto così, con rinunciare a tutto, a depositare ai piedi dello spettatore i loro vestiti sudati. Ecco, questo tema della nudità ha creato già comunque dibattito. Secondo lei perché ancora oggi nel 2017 fa specie vedere un attore nudo sul palcoscenico? Guardi, non lo so, perché me lo sono chiesto pure io. Nel senso, poi bisogna sempre un po' distinguere, nel senso che anche a me per esempio il nudo a teatro tendenzialmente dà fastidio, soprattutto quando questo nudo è l'esibizione di qualcosa, cioè quando ostenta una quando ostenta un virtuosismo, un'esibizione fine a se stessa. Questo nudo, il nudo di Bestie di scena, è un nudo che ha a che fare con col pudore e con, infatti gli attori non si spogliano per dimostrare quanto sono fighi, ma si spogliano e si coprono. Cioè loro è come se fossero in qualche modo costretti a rinunciare a tutto per cominciare questa storia. E quindi c'è anche questo dipinto di Masaccio molto bello, che è la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso, che appunto sono loro due nudi con le mani che coprono i genitali, i seni, e quindi c'è un pudore in Bestie di scena, non c'è una nudità esibita e ostentata, e quindi questa nudità nello spettacolo diventa assolutamente naturale, non so come dire, non sì. viene usata per un giudizio, per esprimere un giudizio. Ed è un po', insomma, l'espressione di una fragilità, come ha detto anche lei adesso, cioè proprio essere quasi senza pelle, no? Senza quello che ti rappresenta. Esattamente. Sì, è il nudo dell'anima, non soltanto il corpo. Thank you. Il teatro di Emma Dante racconta l'uomo come un essere difettoso, emarginato, afflitto e non fa sconti al pubblico che viene sempre chiamato in scena. Chi la ama la vede come un'artista d'avanguardia, ma chi la detesta lo fa con una foga inaudita. Memorabile fu Zeffirelli che nel 2009, quando la Dante firmò la messa in scena della Carmen alla Scala, decretò «è opera del demonio». Emma Dante invece scava nella fragilità e lo fa con grande dolore e con grande cura. Soprattutto ogni cosa del Teatro della Dante parla di Palermo. Palermo è insomma, quasi un'icona, cioè ritorna sempre nei suoi testi. Anzi, io ho letto alcune interviste e tempo fa lei in un'intervista disse che addirittura i suoi testi glieli scrive Palermo. Ecco, che cos'è che rende così forte Palermo nella sua narrazione? Che cosa le lascia addosso questa città? Beh, è una città esibizionista, perché è una città dove tutto avviene, molte cose avvengono nelle piazze, nelle strade pubbliche, no? Ci sono delle manifestazioni pubbliche anche dei propri sentimenti, c'è questo bisogno di condivisione, di esasperazione anche del gesto, del racconto, della narrazione, no? Per cui è una città sicuramente teatrale da questo punto di vista, perché è una città narrante. E quindi in questo senso dico che scrive il mio teatro, perché appunto, tra l'altro, questa cosa io l'ho rubata a Enzo Moscato, che la diceva di Napoli, perché mi sembrava che coincidesse anche col mio modo di fare teatro, cioè con il mio rapporto con la città. Lui diceva che Napoli scriveva il suo teatro, ed effettivamente capisco benissimo quello che intendeva dire, e tant'è che lo dico anch'io su Palermo. E in questo momento io ho un dialogo con i teatri della mia città, ho la possibilità anche di fare una scuola, di dirigere una scuola di teatro, per cui, che è al suo secondo corso adesso, per cui questa è una grandissima, cioè creare a Palermo un luogo della formazione per me è una sfida molto grande, perché significa far venire dal nord le persone a studiare al sud, che è una cosa, insomma, come lei può immaginare, abbastanza paradossale. Per cui io penso che in questo momento ci sia una buona, è chiaro che ci sono molti problemi, c'è un modo di lavorare, di approcciarsi al lavoro che è completamente diverso da altri posti, appunto come al nord, come a Milano. Cioè Milano è la città proprio dell'eccellenza, dove tutto funziona molto meglio, eccetera. Non si può fare un paragone tra Milano e Palermo, è impossibile, perché Palermo viene viene distrutta da questo paragone. Però nello stesso tempo si può dire che nonostante ci siano delle grandi differenze, dove appunto a Milano tutto ciò che è straordinario a Palermo risulta ordinario, devo dire che in ogni caso lo straordinario di Palermo è sempre qualcosa che comunque arricchisce, nel senso che io, nonostante i problemi e le difficoltà, ho deciso e continuo a decidere di stare lì, di vivere lì. E non solo, lei ha anche scelto proprio di raccontare al pubblico, al grande pubblico. Tra l'altro lei è amatissima anche a Parigi, insomma ha una schiera di fan incredibile. Lei ha deciso di continuare a raccontare il tema dell'emarginazione, il tema della famiglia, però nelle sue pieghe, come dire, più morbose, più difficili, più bigotte. Da dove nasce questa urgenza? Perché appunto non si esaurisce mai questa vena? Perché la famiglia continua ad essere un serbatoio di frustrazione, secondo me, di segretezze, di cose non dette, di rapporti morbosi, e quindi non finire questa ossessione di raccontare quel tipo di nucleo sociale che è la famiglia. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. La prima volta. Ben ritrovati, l'ospite di questa sera è Emma Dante, una drammaturga e una regista palermitana. Tra pochi giorni, il 28 febbraio, debutterà a Milano al Piccolo con Bestie di Scena. La Dante, come avete avuto modo di sentire anche nel corso della prima parte del programma, è un'artista di rara intensità, è amata alla follia dai parigini che le darebbero la cittadinanza onoraria, comodità alla quale Emma Dante però fugge. Nei suoi testi c'è da sempre Palermo, c'è da sempre la Sicilia, come abbiamo sentito e come sentiamo in questo breve estratto di un'opera di qualche anno fa, Le sorelle Macaluso. Le storie che racconto sono storie che hanno a che fare con la vita e quindi con la tragedia e l'ironia, perché sempre, e succederà sempre, sì, che in un momento di grande tragedia, di grande tragicità, un essere umano senta il bisogno di sdrammatizzare, e quindi la famosa barzelletta raccontata a un funerale per non morire di dolore è quella barzelletta è sicuramente la chiave, insomma, anche per farla questa elaborazione del lutto che noi facciamo sempre nella vita. E un'altra cosa che invece volevo chiederle è relativa al fatto che nelle sue rappresentazioni c'è sempre un momento in cui l'attore rompe il patto, cioè si rivolge direttamente al pubblico. Intanto le chiedo se anche in Bestie di Scena ci sono questi, diciamo, questi momenti, e poi perché decide sempre di creare questa chiave di contatto col pubblico. Sì, in Bestie di Scena addirittura comincia così, l'attore, come se desse al pubblico il suo vestito sudato, glielo consegna, c'è un passaggio di consegna, quindi sì, c'è uno sguardo e su questo sguardo è stato impostato lo spettacolo. E perché, mi chiede? Perché l'attore, perché lo spettatore, spettatore, non è una figura passiva per me, non deve esserlo, perché sennò l'esperienza del teatro non la si può fare, nel senso che lo spettatore è una persona che ha la sua posizione rispetto a quello che vede, che sicuramente è una posizione comoda perché ha una poltroncina che ha pagato e lì si siede, però deve diventare scomoda, perché se quella poltrona dà soltanto comodità allo spettatore e non lo mette nelle condizioni di scomodità, perché soltanto nella scomodità si può in qualche modo mettere in moto anche una riflessione, una partecipazione anche fisica, non so come dire, perché stare scomodo sulla sedia significa sentire il corpo, e quindi i miei spettacoli tendono a provocare questa scomodità. Senta, volevo chiedere invece una cosa relativa alla città di Milano. Lei con Milano ha avuto diversi momenti di incontro, per quasi tutti noi è stata soprattutto la persona che nel 2009 inaugurò la stagione del teatro alla Scala con la regia della Carmen, fu molto contestata. A distanza di qualche anno, cosa pensa di quell'esperienza? Ma non penso in particolare a quell'esperienza, penso a tutto quello che ho fatto e mi sembra tutto giusto, tutto naturale. Credo che anche quella sia stata un'esperienza naturale, comprese le contestazioni. Tutto ciò che è naturale per me ha motivo di esistere, quindi anche quelle contestazioni, quell'apertura della Scala di quell'anno, tutto quello che è successo, eccetera, e il mio abbraccio con Daniel Barenboim, cioè tutta una serie di cose, di quello spettacolo che secondo me era molto forte, bello e soprattutto era come lo volevo, e tutto corretto, giusto, naturale, quindi questo penso, alla naturalezza. Soprattutto c'è in lei sempre, secondo me, una onestà intellettuale che forse è la sua forza più che arriva anche appunto nel corso delle interviste, no? E questa onestà è inattaccabile, perché poi di fatto nonostante appunto uno possa scegliere di seguirla o meno, possa scegliere che le piaccia o meno il suo spettacolo, resta comunque una persona, come diceva lei, che rende scomoda la sedia dello spettatore, che si impegna perché appunto chi viene esca con qualcosa da poter raccontare. Io ho letto che tutto questo nasce anche appunto da un suo percorso di crescita collegato a un dolore. Secondo lei è necessario soffrire per poter diventare appunto così forti nella propria affermazione delle proprie idee come artista? Soffrire nel senso avere dei lutti sì. prematuri? No. Era proprio una questione collegata a quanto ci si rinforza nel conoscersi nei momenti di fragilità, però appunto non sì, era... Ma... No, capisco, però appunto non credo che un artista, per essere un grande artista, debba necessariamente provare dolore o perdita, cose del genere, o debba per forza cominciare a lavorare nelle cantine in condizioni atroci. Io non credo al disagio, al dolore e al disagio come elemento fondamentale. Credo che il percorso della conoscenza per qualsiasi essere umano, a prescindere dalle scomodità in cui si trova, dai disagi in cui si trova, a prescindere dai lutti o dalle perdite che ha, eccetera, il percorso della conoscenza è un percorso che ha a che fare con la sofferenza. Assolutamente, quello sì. Senza quel percorso della conoscenza non si può assolutamente fare nessun tipo di ragionamento intellettuale, cercare quel gesto artistico che sì, magari trovarlo, che non trovarlo per tutta la vita, ma cercarlo, perché cercarlo è sicuramente la cosa più importante. Senza il percorso della conoscenza questa cosa non si può fare, ma si può benissimo però essere un artista con una chiarissima idea, una chiara voce forte, farla arrivare forte anche senza avere provato dolore per delle perdite, per delle tragedie personali. Cioè assolutamente la tragedia personale io la escluderei come... Cioè nel senso che il percorso della conoscenza è un'altra cosa. Le volevo chiedere com'è stato debuttare anche alla regia cinematografica, perché so che lei poi ha messo in scena il suo libro Via Castellana Bandiera. Volevo sapere appunto se le è piaciuta l'esperienza del cinema. No, l'esperienza del cinema mi è piaciuta molto e mi ha dato anche molto e voglio rifarla questa esperienza, perché adesso sto cercando, insomma da 5 anni cerco una produzione per il secondo film. Quindi è una cosa che continua, ho già il soggetto, ho già scritto il trattamento insieme ad altri 2 scrittori, però il cinema è chiaramente più difficile, cioè per fare il cinema ci vogliono i soldi, nel senso che senza la produzione, invece il teatro io lo faccio come lei sa, insomma anche con sì. 2 sedie e una lampadina, no? Quindi... Anche se per esempio Bestie di Scena è uno spettacolo che è stato prodotto dal piccolo, dal biondo di Palermo, da Avignone, è uno spettacolo insomma comunque che abbiamo potuto provare 2 mesi e mezzo, per cui anche se è uno spettacolo senza scenografia, è uno spettacolo che ha un grande lavoro dietro, questo lavoro chiaramente è stato pagato, insomma, per cui, però il cinema è un'altra cosa, cioè il cinema, tu un film non puoi cominciare a girarlo se non hai almeno una base di 2 milioni di euro, per dire, no? Perché è un'altra storia, cioè è un percorso diverso, lì c'è la tecnologia, c'è proprio tutto un altro tipo di preparazione, eccetera, per cui sicuramente io che sono una che fa comunque il teatro della preistoria, cioè nel senso che mi metto lì davanti al vuoto del palcoscenico e posso stare anche un anno davanti a questo vuoto e cercare di riempirlo con l'immaginazione, chiaramente mi sento più avvantaggiata in un mondo così che non alla ricerca appunto di un finanziamento e di legato appunto più a una storia che ha a che fare con un film. La prima volta termina qui, grazie per essere stati con noi, potete riascoltarci in podcast, a domenica prossima. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Per le fogne, i pezzi in radio, le illusioni, le cicogne, passa la gioventù, lo sai che tutto cambia, nulla si può fermare, cambiano i regni, le stagioni, presidenti, le religioni, gli urlettini dei cantanti, e intanto va segnare il vero senso della vita, si cambia amore, idea, amore per noi che siamo solo di passaggio.